Sai che cosa si dice? Che la luna è pazza di te. Così almeno si sente. Così almeno si sente, ma motivo vero non c'è. O la luna è pazza di sé, o la luna è sciocca, ma fai bene a coprire la bocca. Sai che cosa sorprende? Che di lei tu fai ciò che vuoi. È una luna infelice, o gelosa marcia di noi. Ha una parte oscura, lo sai, e nel buio scalcia. Si fai bene a voltare la faccia. Tieni gli occhi e i pensieri socchiusi, i tuoi respiri leggeri soffusi, e porta il vento che hai nelle mani in mondi lontani. Spegni il lume, rimetti gli occhiali, non è prudente scoprire i fondali, e togliti il profumo e i capelli. Too bad.